binario 10, c'è qualcuno? Binario 10, brecco. Chi è avanti? Oh, ciao Giulio, vabbè, buonasera. Ok, buonasera anche a te. Mi sto aspettando il turno, devo fare il bagno. Ma io non ho già fatto la doccia, troppo caldo c'è, cazzo, mamma mia. Ma sto facendo altro che bere, mangiare frutta. Io lo so, ma io stavo lavorando, per cui ho sudato moltissimo. Pensavo che lavoro fatto anche stamattina. Ma il laboratorio o a casa? Ho toccato quel tasto, quando ho cambiato canale. No, a casa sono qua, stavo facendo delle cose a casa. Per non perdere l'abitudine, così. Beh sì, certo, perché d'altronde, se non le faccio io, che me le fa? Vabbè, è già tanto che le sai fare. È già una cosa abbastanza agevole il fatto che tu le sappia fare. Beh certo, io ho sempre fatto di tutto, per cui ho problemi, no? Vabbè. Anche se quello dice ognuno già su, al massimo si arrangia, c'ha da fare cose. Certo. E poi c'è sempre molto da fare. A proposito, sto facendo con un dipolo. Come segnare 5 watt, anzi 4 watt, come stanno arrivando, come segnare la teglia? Vai. Aspetta che metto gli occhiali, giurati. È un dipolo che è molto male. È un metro da terra, hai 4 mura, dai. Per cui è interrata. E dunque è coperto anche dai muri. No, qua c'è 9.30 sempre, come al solito, sicuramente è puntato verso questa parte. La radio è che non è molto chiara, non la sento limpida, la sento troppo compressa. Ecco, adesso l'ho abbassata un tantino, evidentemente è andato un po' alto il mic gain, adesso va meglio questo. Adesso va bene, non esce di lusso, prima era troppo compressa. E allora giù, qualche novità, niente, che non mi racconti di bello. Sì, bello, niente di particolare, sempre sotto 80, per cui la mattina me ne vado in motella, faccio un'ora, due ore così, divertendomi, che altro, non lavorando, lavorando per me stesso. Sono costruito un tabattello, mi sono costruito, perché mi occorre. Ma in ferro? Sì, in ferro, certo, con le ruote, con i stabilizzatori, tutto pronto. E mi serve perché vuoi fare dei lavori nella Pescara piazzata in facciata, a 4 metri da terra, la piazza. Vabbè, hai fatto bene. Se te lo puoi fare in bottega, fai bene che te lo fai tu. Guardate, a spendere i soldi a comprarlo. Ce lo sai fare, è giusto che faccia così, poi già stai bene, tranquillo. Ma Davide è sempre lì, sì? Sì, Davide è sempre lì, ma certo. Passare le macchinate se le passate tutte fuori. È poco lavoro, sembra che ha, non lo so, comunque è sempre lì. Già sta andando avanti, però non è questo grande lavoro, perché... Lo so, e va un po' da tutte le parti, così. C'è crisi da tutte le parti giù. Io guarda, non vedo l'ora di andare in pensione, così almeno mi passa tutta la fifa che ho, perché vedo che le cose non stanno molto bene. Certo, oggi è un problema, è un problema veramente. Non capisco questo governo cosa stia pensando di fare. E intanto continua a far arrivare questi disperati. Sì, va. Fanno far arrivare questi disperati a complicare ancora di più la situazione dell'Italia. Boh, non è possibile. Boh, poi ci mettono anche le tasse, le cose, la pompa delle scatole. Ieri mi è arrivata questa cosa, la tabella del comune, dicendo che dovevo pagare la tassa del 2016, la tassa modesta, quando l'ho pagata in unica soluzione del 2016, e via a cercare questa roba, via cercando, alla fine ho trovato la cartella. Stamattina sono andato, non solo di Danieleo, ma devono dare loro. Eccomi già, non buttare via le ricevute, perché anche a me me l'avevano mandata, ma è già un anno fa, questa storia. A me addirittura mi cercavano di 2 anni, adesso non mi ricordo se era il 2014 o il 2015, una cosa del genere. Meno male che avevo tutte le ricevute ben conservate. Non solo li ho portati qui, ma li ho portati quelli ancora precedenti a quella razza lì e quelli successivi qui a quella razza, tutti li ho portati. Dice, va bene, dice, ti apposta. Certo, ho preso la mattinata intera lì, perché c'è da fare la fila lì. Devi andare su vicino a dove c'è il coso, Roberto Quadrato, devi andare lì al comune, dimmi. Sì, sono già andato stamattina io. Io ero lì dalle 8, ero il primo. All'8:30 a FIFA, c'ero dalle 8 e passerò mezz'ora aspettando, però almeno sono il primo e poi me ne vado via. Alle 9:04 io stavo uscendo. È stato bene andare presto, perché io ci sono andato che era un po' tardi. Sono stato 10:30, una cosa del genere, così. Anzi, sono uscito quasi a luna, C'era tanta con la gente, adesso la cosa non è possibile. Non è possibile, guarda. Meno male che avevo tutte le ricevute, però avrei dovuto pagare quei 2 anni addirittura. Il 2014 mi sembra che era il 2015, mi chiedevano. Ma che sono macchie a vedo. Ma noi naturalmente avevamo tutte le ricevute che avevano risolto il problema. Sì, ma anche io c'ho tutte catalogate nelle cartelle, metto per dire ricevute TV, ricevute economia, c'ho tante cartelle, no, tutte quante sono tutte catalogate. Solo che il problema era trovare la cartella, trovare come essa. Quindi ho dovuto girare un po', ma già l'ho trovata, poi quando le cose sono conservate già si trova. E lì metto tutte le cose. Sì, l'ho già, come mi ha spillato la cosa, mi ha fatto fare una domandina, per praticamente mi dovevano dare dei soldi, e poi ho fatto questa domandina per avere i soldi. Quest'anno non me li danno, me li danno il prossimo anno, me li scalano. Ma lei dice, quando si tratta di rimborsare sono molto ricchi, ma quando si tratta di prendere, e noi dei conti in tempo utile, permettono multe, more e di tutto, e di più anche. Certo che la testa è simile, non è possibile. E passano qui all'Equitalia, capito? Una volta che tu non paghi lì, la passano all'Equitalia e ti aumenta di 3 volte. Sì, infatti è così, certo. Lo so, e purtroppo bisogna conservare sempre per parecchi anni tutte le ricevute. Non so adesso per quanti anni si devono conservare, però tanto non pesano, non ci vuole molto. Li metti dentro un cassetto, dentro una cartella e li tieni per tanto tempo. Poi almeno se ti cercano, sai che ci sono, al limite poi te li dovrai leggere tutte, dalla prima sera all'ultima, tutto per verificare quello che ti stanno chiedendo, se è stato pagato o meno. E bisogna farlo già, così bisogna fare, purtroppo così. Ma io li ho catturati anche anno per anno, metto anno in corso 2017, per dire, 2016. Adesso la tassa voltezza, la prima scadenza è il 31 di luglio. Sì, lo so. Vabbè, comunque, cosa vuoi dire? Vabbè, queste sono le sistemi dell'Italia. Almeno qui a Sassari sono così. Poi sono addormentati, vedo più gente che entra e esce. Girati, parlo di giratemi. E la gente lì come tanti stessi aspettando la loro comunità. Fanno veramente schifo, non hanno voglia di fare niente di al comune. Poi non sai cos'è. Io non so cosa ho fatto, io la pago sempre in un'unica soluzione giù, perché così almeno me la tolgo dalle scarpe e dico, almeno non mi cerca, ma invece me ne decado una testa. Sì, quello sì, e vabbè, ognuno la paga come vuole, non è un problema, quello è anche caratterizzata tre volte, 4 volte mi sembra, a vero senso. No, io sono del parere che non bisogna mai darglielo allo Stato tutti in una volta soli. Se c'è quella possibilità di caratterizzarli, naturalmente senza gli interessi, e poi ci sono gli interessi, è diverso il discorso. Allora, chi me lo fa fare a dargli tutti in una volta? Per quale motivo? Perché loro sono molto solleciti sono quando si devono rimborsare, no? Assolutamente. Per cui è meglio dargli un po' per volta, come lo decidono loro stesso, non è che lo stai dicendo tu, e va bene così. O giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, telefono. Ok, dai, intanto io dai, devo farmi l'immagine, dai, dopo ci sentiamo più tardi eventualmente, se coincide. Ciao, già, alle prossime, dai, adesso volevo lavorare, ciao.